Il nuovo film di animazione del regista texano Wes Anderson, vincitore dell'Orso d'Argento alla 68esima Berlinale, è un ostinato tentativo di resistenza al contemporaneo disciplinamento spettacolare dell'animalità. Il desueto utilizzo della tecnica stop motion, per esempio, il passo uno dei classici dell'animazione, il contenuto decisamente politico, ne fanno un'opera unica nell'odierno panorama cinematografico. L'animalità, idea con cui il cinema gioca maliziosamente da quando è stato inventato, diventa in questo caso questione dell'animale bandito e estromesso dal vivere civile in quanto figura anomica, in quanto outsider. A differenza della favola del toro, per esempio, la forma dell'acqua che si adegua a tutti i cliché del fantasy, l'Isola dei Cani sovverte le regole del film di animazione, generalmente animato dalla correttezza politica contenutistica, e dichiara senza fraintendimenti di sorta da che parte stare, quella dei diseredati. La storia narrata è ambientata in una fantomatica località del Giappone, Megasaki, e proiettata in un futuro prossimo. Nella metropoli scoppia un'epidemia di influenza canina, appositamente diffusa dall'amministrazione cittadina e dal sindaco, con il recondito obiettivo di alimentare paura e panico fra i cittadini e veder così riconfermato il mandato di prossima scadenza. I media ufficiali, sorta di braccio ideologico del potere amministrativo, diffondono fake news sui pericoli di possibili contagi interspecie, raccogliendo consenso da parte della maggioranza dei cittadini e creando così un diffuso sentimento di intolleranza nei confronti dei cani, sia randagi che domestici. Finché con un decreto ad hoc si stabilisce la deportazione dei cani su un'isola antistante la città, vera e propria discarica a cielo aperto dove si concentrano rifiuti tossici di ogni sorta. L'isola dei cani, nella visione di Anderson, è l'isola della spazzatura, il microcosmo, cioè dove relegare tutto quello considerato e percepito come diverso e non conforme alle regole della convivenza civile, quindi in quanto pericoloso da emarginare e discriminare. Per poter esercitare il potere politico sulla vita, su ogni vita, le istituzioni governative rappresentate nel film dall'amministrazione della metropoli di Megasaki devono trovare continuamente nemici su cui focalizzare le paure dei cittadini, facendo leva su concetti come degrado e insicurezza. Film quanto mai attuale, quindi, perché queste sono le nuove parole d'ordine che sembrano accomunare globalmente tutte le metropoli del nostro mondo contemporaneo. In questo senso, il film di Anderson, più che una metafora sulla discriminazione e stigmatizzazione del diverso, sembra essere un'acuta riflessione sulla gestione dello spazio pubblico e la tutela degli interessi privati che mettono a profitto tali spazi. Insomma, è un film politico sul fenomeno della gentrificazione, cioè il modello urbano che serve a giustificare l'esclusione degli outsiders, vagabondi, accattoni, randagi, migranti, tutti quei soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi e il loro allontanamento verso le periferie, i cosiddetti quartieri dormitorio. C'è poi un uso sconsiderato del suono nel film, una cosa che a me ha colpito molto. La regia della colonna sonora è stata affidata ad Alessandro Desplat, che ha curato anche lo score, guarda caso, della forma dell'acqua, motivo che in qualche modo mette in relazione i due film, composto da rimbombanti silenzi, dolci melodie indie pop e tronituanti percussioni echeggianti la musica tradizionale giapponese, che risponde in qualche modo all'esigenza di fornire il ritmo necessario per sincronizzare il noi umano con il loro canino. I taiko, i tamburi giapponesi tradizionali, diventano così il ritmo che unisce animali umani e animali non umani, il battito primordiale che segna la rivolta transpecifica dei cani dell'isola della spazzatura e degli studenti solidali con la resistenza animale. Il riferimento, per niente velato, è alla Zengakuren, cioè la Lega Nazionale degli Studenti, costituita in Giappone alla fine degli anni 60 e che nel 68 diede vita a un vero e proprio conflitto culturale, politico e militare. Leggendari sono stati gli scontri dei giovani militanti contro le forze dell'ordine, proprio con i rappresentanti dei corrotti governanti del paese. Il movimento studentesco si proponeva allora di rimettere in discussione l'intero impianto patriarcale e discriminatorio della società, ancora rigidamente strutturata sulla falsariga della tradizionale famiglia giapponese. La Lega degli Studenti, animata da una forte carica ambientalista, le manifestazioni contro la costruzione dell'aeroporto di Narita a Tokyo, proprio si protrassero per giorni ed è una dirompente carica dissacratoria nei confronti dell'establishment istituzionale, del tutto dipendente dagli interessi economici americani, aveva anche una fortissima componente femminista che spingeva per una radicale revisione dei ruoli e reclamava una presa di coscienza che avviasse una reale liberazione sessuale. Qui entra in ballo uno dei personaggi più importanti del film, Tracy Walker, la studentessa americana, che contribuirà infatti a svelare il complotto del sindaco Kobayashi nella vicenda legata all'epidemia canina. L'altro personaggio principale del film, a parte i cani, è Atari, il bambino adottato dal sindaco di Megasaki, nella sua disperata ricerca di Spots, il cane a cui era stato affidato come surrogato della figura paterna, che qui diventa allora l'epitome di lotta e resistenza che attualmente unisce tutta quella soggettività considerata anomala e per questo sottoposta a un processo di vera e propria animalizzazione. La seconda parte del film è infatti interamente dedicata alla rivolta dei cani sequestrati sull'isola che ingaggiano, insieme ad Atari e a Spots, finalmente ritrovato, una vera lotta di classe contro il potere dispotico che caratterizza globalmente le attuali forme di governo democratico e civile. E perdonatemi se insisto, ma mentre Shape of Water indugia sull'universalità dei diritti, in Isle of Dog la figura del clandestino, cioè colui che è costretto a nascondersi, e del rifugiato, cioè colui che cerca un rifugio, un nascondiglio, trova nel cane randagio il soggetto antagonista in grado di intrufolarsi proprio nelle tane del potere.